Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio e ben ritrovati, puntata della vigilia di Natale. Per l'occasione vi facciamo riascoltare una trasmissione molto richiesta dagli sms, dai messaggi email. Ricordiamo che la nostra casella di posta elettronica è novalab24@radio24.it. comunque, si tratta della puntata in cui sono stati assegnati i teletopi. Parliamo di web tv, parliamo di televisione via internet, ma ascoltiamo quindi questa premiazione che ha promosso le migliori del 2009 e ricordo che la puntata è andata in onda il 30 novembre. I telegatti li conoscono tutti, i teletopi non li conosce nessuno, ma noi siamo orgogliosi di essere un po' teletopi. Siamo qui con Giampaolo Colletti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luca. E venerdì scorso, no? Sì. Venerdì scorso la premiazione. Esatto, cosa sono questi teletopi? Ma i teletopi sono gli Oscar delle micro web TV italiane. Tra l'altro cadono in un anno dove i telegatti non sono andati neanche in onda nelle televisioni generaliste. Rappresentano gli Oscar delle televisioni create dai cittadini videomaker per caso e per passione e diciamo disseminate in tutta Italia. Ecco, tra l'altro sia noi come Nova 24 che la trasmissione radiofonica di Nova Lab 24 ha dato sempre spazio alle micro web TV, perché è un modo diverso per raccontare un po' il territorio. Tu adesso ti sei messo le cuffie, non so se mi senti o meno. Poco, allora ce le togliamo le cuffie, perfetto, altrimenti diventa problematico. Beh, comunque sì, Nova 24 è stata un po' la casa delle micro web TV che sono state raccontate dal 2004 su AltraTV.tv, che è una sorta di enciclopedia delle micro web TV italiane. Allora, tra l'altro partiamo da venerdì. Venerdì cosa è successo? Venerdì è successo che tu hai portato all'Università di Milano, allo IULM, più di 60 micro web TV. Tra l'altro provenienti da ogni parte d'Italia, perché erano molto ben rappresentate le regioni Sicilia, Puglia e Sardegna, ma anche altre regioni d'Italia. 60 canali che hanno gareggiato per i Teletopi 2009. Abbiamo assegnato 5 riconoscimenti a quella che è la nuova televisione. Esatto, quella che è la nuova. La parte interessante, perché c'ero anch'io, è che insomma è andato un po' in scena uno scontro strano tra vecchio e nuovo. C'era questo tavolone tra cui c'ero anch'io, però insomma c'era la carta stampata, c'era Mediaset, c'era la Rai, c'erano insomma tutta quella che noi definiamo la TV di flusso, e dall'altra parte c'era questo popolo meraviglioso insomma di nuovi cineasti, nuovi, non so come definirli, perché poi è televisione a tutti gli effetti, ma è televisione via internet. E c'è stato un momento che ho trovato particolarmente irritante, in cui insomma noi davamo i consigli a loro, e ho trovato tutto ciò una sciocchezza inenarrabile, nel senso che se c'è qualcuno che non ha bisogno di consigli sono proprio loro, perché stanno costruendo qualcosa di completamente nuovo. Sì, nascono lontano dalle logiche della televisione generalista e sono televisioni create da questi gruppi di cittadini che fanno altro nella vita, professionisti, molti pensionati, studenti, che nel tempo libero e nel weekend decidono di raccontare la propria specifica comunità. Sono davvero televisioni di prossimità, sono le TV sotto casa, realizzate poi, Luca, con poche centinaia di euro. Ecco. E infatti tu stai scrivendo qualche cosa sull'argomento. Sì, fine gennaio uscirà un libro edito da Sole 24 Ore, TV fai da web, perché in realtà con poche centinaia di euro si riesce a creare una micro televisione in casa, come hanno fatto adesso le 163 micro televisioni mappate da AltraTV.tv. Quindi, se volete chiedere a Giampaolo Colletti come si fa una micro TV in casa, se volete raccontare delle storie, perché poi insomma l'idea di costruire una televisione piccola via internet qual è quello di voler raccontare delle storie, lui ci potrà spiegare sia a livello tecnologico che cosa serve, sia quanto costa e sia anche un possibile modello di business. Tra l'altro mi raccontavi questa televisione del pastore sardo, se non sbaglio. Sì, il modello di business è una nota dolente, perché in realtà questi canali nascono per spirito amatoriale. Però questa televisione del pastore sardo documenta l'attività di questo Emilio Cuncas, è quasi un video diario di quella che è la sua attività, e poi alla fine il pastore sardo, a chi decide di adottare online una pecora, regala forme di pecorino. Per cui io ti racconto una storia e ti vendo un prodotto, cioè geniale come modello di business, se riuscisse a funzionare su vasta scala. Ma bando alle ciance e passiamo ai Teletopi 2009. Se avessimo un rullo di tamburo lo faremmo partire, ma non ce lo abbiamo, né abbiamo intenzione di farlo con la voce, per cui passiamo al primo premio miglior format delle micro web TV italiane a... Vince un canale sardo, viadeicentenari.it. E noi abbiamo una scheda. Teletopi 2009, miglior format delle micro web TV italiane. Storia di Ignazia e di una strada a due passi da casa sua. Siamo nell'entroterra sardo tra Orroli e Laconi, nel Cagliaritano. In una via soprannominata da Ignazia Via dei Centenari, l'età media si impenna oltre le più consuete variabili demografiche. In questa via vivono Assunta, Bonaria, Rita, tutte ultracentenarie e vicine di casa. Così la micro web TV www.viadeicentenari.it video racconta la vita degli anziani che superano il secolo di vita e chiede loro consigli sul vivere a lungo. Ma la web TV non si limita a offrire un video box coi nonni digitali. È possibile anche incontrare questi anziani visitando la Via dei Centenari. La visita, con un programma turistico creato e gestito da noi, permette una minima forma di autofinanziamento. Allora, www.viadeicentenari.it, noi abbiamo in collegamento Ignazia Olianas. Buongiorno. Buongiorno. Allora, complimenti. Buongiorno. Per il premio innanzitutto. Ah. Grazie, insomma, credo che sia un premio più che altro a chi ha avuto l'idea e chi, insomma, e chi comunque l'ha fondato, diciamo. Ecco, io le faccio la domanda sciocca del conduttore, insomma, cosa farete da grandi? Cioè, è vero che sulla Via dei Centenari è la, è diciamo, la domanda più complicata, però, insomma, c'è una fase 2, come si dice in politica, della Via dei Centenari? Sì, per il momento stiamo cercando di sviluppare un po' di più, diciamo, la conoscenza di questa zona, che è una cosa che si era promessa proprio già la creazione di questo sito, era quello di permettere alla gente di parlare, di condividere con i centenari l'elisir di lunga vita, il perché la gente vivesse così tanto, ma al suo tempo di promuovere la zona, che è quello che è già iniziato a fare. Va incrementato, cioè è solo partito, e sicuramente questa zona, che è ricca di tutto, dall'archeologia, una splendida natura, ha bisogno di un po' più conoscenza. Ecco, certo. Ignazia, diciamo che in realtà siamo a pochi chilometri da Cagliari, in una via che ha una densità particolare demografica per ultracentenari. L'idea di questo gruppo di giovanissimi è raccontare, ecco cosa, l'elisir di lunga vita, come mai si arriva oltre i 100 anni in questa via particolare di un comune del Cagliaritano. Insomma, un format sui consigli del vivere bene. Sì, allora, ma loro ci spiegano, al momento in cui parliamo, con loro ci spiegano il perché della loro lunga vita. Diciamo che hanno delle cose in comune quasi tutti. Sicuramente c'è una vita molto faticosa e laboriosa, ma anche più sana rispetto a quello che facciamo in questo momento noi. E l'altro è sicuramente una... ha lavato tutti tantissimo, quindi non so se questo tutto il lavato sia in campagna e comunque sicuramente non in fabbrica, quindi questo può darsi che abbia anzi sicuramente ha creato meno stress rispetto a quello che invece può essere più... Ecco, signor Olianas, ma Roberto dal Mugello mi ha mandato un SMS, ci ha mandato un SMS in cui si chiede le royalty, come vi tutelate? In realtà non ci sono royalty. No, non ci sono, nel senso che a noi fa piacere comunque far conoscere il territorio e fare in modo che ci sia una trasmissione proprio di questo passato ai turisti o a fotografi o ai giornalisti che sono interessati a questo tema. Non credo che sia un qualcosa che sia di nostra proprietà, lasciamo poi a ogni volta, ogni centenario ai suoi parenti, se chi vuole ci permette di fare delle foto e quindi di portarci con noi un qualcosa di loro, o chi non vuole rispettiamo la loro scelta e noi facciamo una foto. Non è importante. Ma lei guarda la televisione? Sì, la guardo. E cosa guarda di bello? Allora, io sono, guardo un po' tutto, da Rai News mi piace, Rai 3 mi piace, un po' tutto, però evito diciamo tutto ciò che riguarda troppo le TV vuote, insomma, ecco, mi piace. Vabbè, allora mi invoglia a chiederle che cosa intende per TV vuota, anche perché, vuote, insomma, quando uno si mette... una frase un po' fatta che il Grande Fratello, insomma, Non le piacciono i reality. So che non lascia nessun messaggio di buono, sia non solo a me, che comunque magari sono meno condizionabile, però anche ragazzi, insomma, per ciò che è perché, molto... Tra l'altro, c'è Giampaolo, uno dei temi per io sempre, quello che spinge una persona a costruirsi una micro web TV. Quando io ero un pochino, avevo 20 anni, insomma, il tema era quello di costruirsi il giornale online, no? La televisione, insomma, è qualcosa di un pochino più complicato da... Sì, più complicato, però molti di questi canali nascono dalla volontà di rigettare il Grande Fratello in qualche modo e di creare canali di comunità. Molti di questi canali nascono in luoghi dove non c'è una televisione locale o non arriva un bollettino giornalistico locale, quindi quasi una forma di risposta a un bisogno di informazione molto territorializzato, quasi davvero di quartiere, di condominio o, come in questo caso con Via dei Centenari, di una via. Sì, tra l'altro restiamo sul tema informazione, perché il secondo teletopo che andiamo a distribuire è la miglior micro web TV nella categoria denuncia, che è Telestrada, ha vinto adesso senza rulli di tamburo. Tra l'altro, perché la categoria denuncia? Perché è strana come categoria. Non... È particolare, però in realtà molte micro web TV, questo esercito di videomaker per passione, documentano ciò che non va nei vari territori italiani. Quindi quasi davvero il bisogno di denunciare per migliorare nell'atto pratico una condizione all'interno della propria comunità. Telestrada è una micro web TV del Catanese, creata grazie al supporto di un gruppo di volontari della Caritas, ed è particolare perché non ha mediazioni giornalistiche. Lascia la parola ai protagonisti, che sono i senza fissa dimora. Ecco, allora noi abbiamo in collegamento Gabriella Virgilitto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno Giampaolo. Ecco, allora mandiamo subito in onda una scheda che ha redatto Giampaolo sulla vostra televisione. Teletopi 2009, miglior micro web TV nella categoria denuncia, Telestrada. Storia di Bernie, senza fissa dimora, di origine tedesca. Girovaga per Catania. Oggi video racconta la sua vita nella micro web TV www.telestrada.it. Video racconti che arrivano dal quartiere Librino, una delle periferie più disagiate del catanese. E ora proposti nella prima micro web TV fatta da senza fissa dimora, con il supporto degli operatori e dei volontari della Caritas diocesana di Catania. I set televisivi sono perciò le strade catanesi, dove di notte dormono gli invisibili. Per Gabriella Virgilito, volontaria della Caritas, il segreto è ascoltare gli altri e le loro storie. Allora, innanzitutto complimenti. Categoria denuncia perché? Perché nella TV di flusso manca la denuncia? No, in realtà Telestrada non è nata per denunciare qualcosa, ma per rendere visibile qualcosa, per rendere visibile una situazione, per rendere visibile dei volti, per ascoltare delle voci che sono i volti e le voci delle persone che vivono una situazione di grande marginalità adulta. Quindi non è l'obiettivo non è quello di denunciare, anche se chiaramente poi nel rendere visibile qualcosa la denuncia è una conseguenza, diciamo, per noi è un effetto collaterale, ecco, di quello che facciamo. Ecco, ma giustamente è nel momento in cui tu accendi una telecamera, in un certo qual modo fai emergere una realtà, per cui certo. Insomma, ma voi avete dei dati di ascolto? Cioè è successo qualcosa dopo aver acceso questa telecamera? Oppure... Sono successe moltissime cose, non solo perché la telecamera si è accesa, ma soprattutto a motivo del fatto di delle persone che hanno acceso questa telecamera, perché non sono stati volontari della Caritas che forniscono semplicemente supporto, ma sono state le persone senza dimora che hanno voluto accendere questa telecamera sulle loro storie e sulle storie dei loro compagni di viaggio, cioè delle altre persone che come loro vivono la stessa situazione. Sono successe moltissime cose, a parte l'attenzione dei media che abbiamo ricevuto, l'attenzione e la solidarietà della gente comune, c'è stato anche qualche cambiamento. Il cambiamento riguarda soprattutto la considerazione che le persone che si sono avvicinate alla televisione, che l'hanno guardata, hanno delle persone senza dimora. Finalmente Teresa dimostra che la povertà non è uno stigma, che chi è povero, che chi si trova in condizione di disagio, chi vive per strada, non necessariamente è una persona che ha dei problemi mentali o che ha dei problemi di alcolismo. Ecco, Virgilito, di quante persone stiamo parlando? Anche avete c'è la possibilità di calcolare, uso una parolaccia, l'audience? Guarda, l'audience di Telestrada è molto, molto, molto fluttuante. Ti dirò, si criticava tanto la TV generalista. Noi diciamo che ci sentiamo coccolati alla TV generalista, perché quando andiamo in onda su programmi come della Rai piuttosto che di altre televisioni tradizionali, anche TV locali, che tra l'altro ci prestano le frequenze per mandare in onda i nostri servizi, i nostri dati di ascolto ovviamente salgono. Ecco, perché tra l'altro, Giancarlo, c'è anche questo aspetto, che da un lato c'è questo esercito di micro web TV che raccontano la loro storia, racconta il territorio, insomma, raccontano la loro verità, e dall'altro ci sono siamo noi, insomma, l'editore piuttosto che la Rai, piuttosto che i grandi network, che prendono da queste realtà. E la cosa che non ho capito è se questo connubio in un certo qual modo danneggi le micro web TV, cioè è un legame di amore e odio, diciamo, è un legame questo, strano, sì. Io non so che cosa ha detto, perché sono andato via subito, che cosa è stato detto durante il convegno, però insomma è un abbraccio mortale quello della TV tradizionale, può essere. Possiamo dire che l'editore tradizionale ha sdoganato le micro web TV territoriali. D'altro canto il videomaker ha anche interesse a uscire su un media ancora oggi più visto. L'importante, la cosa particolare, è che il contenuto resti quello. In qualche misura queste micro web TV non hanno mediazioni giornalistiche. Nella categoria denuncia si raccontano gli altri. Ci sono molte micro web TV dedicate alla disabilità, raccontate da associazioni di disabili. Ecco, lì non c'è mediazione giornalistica e le storie sono quelle vissute in prima persona dai protagonisti. In questo l'abbraccio può essere mortale, ma si cerca un dialogo. Tra l'altro, l'altra domanda che mi ponevo: è vero che una TV locale può aumentare l'audience chiaramente di un sito che manda in onda poi le storie dei senza tetto, però è anche vero che c'è un rischio di ridurre il tutto a macchietta, di vedere solo l'aspetto folcloristico, insomma di in un certo senso sminuire. Non so, Freccero che va detto su questo tema? Beh, Carlo Freccero, direttore Rai 4, è intervenuto anche proprio di persona nel meeting, è diventato anche presidente onorario della FEMI, Federazione delle Micro Web TV, che è nata proprio venerdì, e ci ha detto di prestare attenzione al racconto, perché l'importante anche nel non flusso della rete è raccontare, e in questo le micro web TV hanno ancora qualcosa da imparare, perché molto spesso il racconto, pur essendo primo di mediazioni, è difficile da chiudersi. Ma tu lo temi personalmente il fatto che domani la Rai, insomma, o la Rai o Mediaset o nuovi editori diceva sì, prendiamo tutti, li raccogliamo con una carriola, inforchiamo 10 di queste micro web TV, le migliori, quelle che sono più interessanti, magari anche quelle che si prestano maggiormente al mercato pubblicitario, perché no? Per cui, so, però la TV di Telestrada la vedo in forte difficoltà da questo punto di vista, perché insomma le storie dei senza tetto non fanno vendere spot e pubblicità. Prende insomma il meglio o il peggio, a seconda dei punti di vista, e li mette nella TV di flusso tradizionale, e ha fatto un'operazione di modernizzazione della televisione. È un rischio, però ci sono alcuni irriducibili. C'è un canale, si chiama Disco Volante di Senigallia, mi ha raccontato che ha rifiutato le avance televisive di una nota trasmissione della rete Mediaset. Quindi in qualche modo c'è qualcuno che dice no ad essere in qualche modo inglobato nel sistema della televisione mainstreaming. Ma voi direste no? Telestrada? Ecco, io mi sentivo di intervenire. Guarda, noi siamo riusciti, forse siamo stati fortunati o forse siamo stati compresi, noi siamo riusciti ad approdare alla TV generalista senza cambiare nulla del nostro linguaggio, del nostro forma, del nostro modo di fare. Semplicemente è accaduto questo: siamo messi d'accordo con una televisione locale che in dati orari oscura il proprio palinsesto per mandare in onda Telestrada così com'è, così com'è su internet. Quindi certamente diremmo no, ma penso che, come dicevi tu, le storie, diciamo, delle persone senza dimora non so diciamo quanto potrebbero essere appetibili per una TV commerciale. Lo sono state per una TV, una piccola televisione locale che si chiama Telebianca e che voleva riempire il proprio palinsesto in certi momenti di determinati contenuti che non sono stati alterati minimamente dalla redazione della televisione. Per cui noi andiamo in onda su questa televisione locale così come andiamo in onda su internet. Okay. Altrimenti certamente noi forniamo un DVD, ecco, per dirlo in maniera molto così, molto semplice, un DVD che viene messo in onda così com'è, per cui non abbiamo dovuto scendere a nessun tipo di compromesso. Beh, buono. Inerzio Lianas. Sì, ci siamo. Voi? Ma noi abbiamo avuto quest'anno un momento in cui abbiamo avuto varie interviste e devo dire che sulle interviste siamo accorti che hanno un po' travisato un po' le cose. Oh, quindi insomma, cattivi giornalisti. Le cose che hanno riportato non era corretta, anche se quindi insomma il succo c'era, però insomma non sono stati bravi. L'articolo l'ha cambiato, però diciamo che chi comunque poi si collega a internet e vede il nostro sito, il nostro messaggio c'è. Torniamo un attimino sul tema della TV, anzi passiamo al tema della radio, perché esiste anche un movimento di web radio. Sì, esiste un movimento di web radio, molte universitarie, e in realtà sono un po' i cugini delle micro web TV. Sono realtà che nascono in contesti accademici e nel tempo, negli anni, hanno iniziato anche a dialogare con il territorio, quindi ad aprirsi alla comunità. Però c'è una grossa differenza rispetto a quanto avviene. Cioè le TV mi sembra che siano nate con l'obiettivo di raccontare il territorio, cioè la radio è nata molto invece con insomma dare voce forse all'università, dare voce a determinati ambienti, insomma, un po' diverse, obiettivi diversi, anche scopi proprio diversi nei canali. Diciamo che si parla tanto di digital divide, le micro web TV rappresentano in pieno chi quotidianamente lotta per documentare con le proprie telecamerine quello che accade sotto casa. Penso a Michelino TV, una televisione creata da un gruppo di giovanissimi di Besozzo, provincia di Varese. Non hanno la banda larga a Besozzo, vanno nel paese vicino per uploadare i filmati più velocemente. Quindi c'è chi lotta quotidianamente contro la piaga del digital divide. Tra l'altro questo è un temone, nel senso che non solo perché si sta discutendo di finanziare, come combattere il digital divide, ma anche perché la cosa particolare, ma anche paradossale, è che molte di queste televisioni nascono proprio in luoghi dove è faticoso, cioè dove la banda larga o non c'è o si arriva, non vi racconteremo Teleosservanza che a breve che è meraviglioso da questo punto di vista, però insomma in luoghi dove è complicato. Delle 163 micro web TV presenti in Italia, tantissime nascono nei piccoli paesi, nei borghi dove non c'è banda larga, però con poche centinaia di euro e magari con una connessione mobile flat si riesce. A proposito di poche centinaia di euro, quali che sono i numeri di una televisione di questo tipo da un punto di vista di costo? All'anno orientativamente sui 500-600 euro si riesce a creare un canale, salvo però avere magari una telecamera semiprofessionale digitale. Però alcune televisioni micro ridigitalizzano pellicole amatoriali degli anni passati, quindi non hanno neanche la necessità di dover usufruire di una telecamera. Penso a storiedigitali.it di Milano, ma anche Orso TV, che ha raccontato nelle valli Orco e Soana e ha vinto anche un particolare teletopo perché ha ripreso i filmati delle valli Orco e Soana e quindi i filmati degli anni 50 e 60 ridigitalizzando. Nova Lab 24. Vigilia di Natale, 24 dicembre, torniamo dunque in onda, Nova Lab 24. Stiamo riascoltando la puntata dello scorso 30 novembre dedicata ai teletopi. Ecco, una domanda via SMS che è arrivata e dice, Kate da Treviso si domanda, ma non sono dei piccoli grandi fratelli? No, l'opposto, nel senso che accendono sì la telecamera davanti a realtà particolari, ma Ma l'accendono per documentare ciò che non va, per lasciare un microfono acceso verso cittadini che magari non avrebbero questo spazio. Penso a Telecitofono di Reggio Emilia, ne abbiamo già parlato, che ha creato un video box, sente le lamentele dei cittadini e poi porta tutto al Consiglio Comunale. Sono delle sentinelle digitali. Noi abbiamo dedicato una puntata a questi watchdog dal basso, non dobbiamo dire dal basso perché è una brutta espressione, però insomma nascono dal basso e ci piacciono anche per questo, su via. Passiamo alla seconda premiazione, alla terza premiazione, Teletopi 2009, miglior micro web TV nella categoria giovani, il rullo non ce l'abbiamo perché siamo poveri. Però è quella di Fuori TV di Modena, una micro web TV nata qualche anno fa a Modena, che è una terra anche complessa e anche interculturale. Questo gruppo di giovanissimi insieme non arrivano, sono in 5, non arrivano agli 80 anni di vita e insomma documentano ciò che accade nel territorio modenese. Tra l'altro una particolarità, la regione Emilia-Romagna è molto ricca di questi micro web TV. Infatti qua c'è un modello di business carino, mi sembra di capire. Teletopi 2009, miglior micro web TV nella categoria giovane, Fuori TV. Storia di Cristina Provenzano e di una micro web TV giovanissima. Siamo tutto fare. Scriviamo, giriamo con la telecamera per la città, montiamo e poi mettiamo in rete le clip, ci dice Cristina Provenzano, ideatrice della micro web TV Fuori TV. Canale fuori dall'ordinario con inchieste on the road, come il documentario sulla vita delle badanti che si ritrovano nel tempo libero vicino al Parco delle Rimembranze. Fuori TV è visibile su www.fuori.tv. Allora, buongiorno Cristina Provenzano. Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Voi siete giovani dentro o siete giovani come format? Cioè, insomma, ammiccate un po' MTV, ammiccate un po' queste, vi piacciono le cose un po' colorate? Ma un po' tutte e due, siamo giovani nell'età e siamo giovani anche di nascita, insomma, abbiamo 3 anni, ecco. Siamo nati all'inizio del 2007, stiamo per compiere 3 anni. Adesso parliamoci chiaro che non ci sente nessuno, ma cioè, l'obiettivo qual è? Quello di fare MTV, cioè diventare una TV giovane? No, assolutamente no. Il nostro obiettivo all'inizio era, cioè, noi ci siamo trovati in tre e ci siamo chiesti che cosa mancava nel panorama delle televisioni locali. E ci siamo accorti che nella nostra provincia, insomma, non veniva raccontata la vita dei giovani, veniva raccontata soltanto una parte, cioè quella pubblicitaria legata alle discoteche, cose di questo tipo, però non corrispondeva alla realtà, c'erano un sacco di progetti, un sacco di realtà che non venivano raccontate. E così abbiamo deciso di iniziare questa avventura, quindi un po' per sopperire ad una mancanza. Chi vi paga, Provenzano? Noi siamo partiti chiedendo un po' come una scommessa un finanziamento alla Comunità Europea. E la Comunità Europea ci ha approvato il finanziamento con priorità 1, un piccolo finanziamento in realtà, ed è stato un po' difficoltoso perché... praticamente i bandi della Comunità Europea ti pagano con un po' di ritardo, quindi siamo partiti con niente, con quello che avevamo a disposizione. Poi sono i costi che dovete supportare? Perché poi mi spiega Giampaolo, insomma, la vostra è una TV anche un po' sofisticata rispetto alle altre, vero Giampaolo? Beh, sì, è particolare perché insomma crea dei palinsesti aggiornati settimanalmente e crea questo legame forte con il territorio. Ecco, una caratteristica di Fuori TV, come di tanti altri canali, è che c'è questo legame oltre lo schermo. Le riunioni di redazione magari si realizzano al bar, oppure c'è questa volontà di stare sul pezzo e stare nella comunità. In che senso le riunioni? Mi spieghi, Provenzano? Sì, dunque, in realtà per quanto riguarda i finanziamenti, che dopo la Comunità Europea, chi ha creduto in noi un po' sono state anche le istituzioni che ci hanno permesso di andare avanti, ci hanno dato un posto dove montare, la possibilità di vivere, diciamo. E le riunioni, ma sì. Questo perché non pungete, perché non siete cattivi? No, non è vero. Cioè il giovanilismo, cioè no? Non è vero, no, non è vero, perché abbiamo fatto anche cose un po' particolari, cioè siamo andati a vedere che come mai in Riviera Romagnola è stato praticamente chiuso l'accesso al lungomare perché c'era troppa confusione, quali erano, con una telecamera nascosta siamo andati a vedere come mai le persone, per esempio da Modena, da Reggio Emilia, vanno tutte in Riviera d'estate a cercare, come, diciamo, mai? Droga. Ah, ecco, perfetto. Sì, esatto. droga e alcol fruibili. Quindi fate anche un po' Striscia la Notizia. Ma tu la guardi la televisione analogica, non più analogica, digitale, insomma, il digitale. Beh, sì. Che cos'è che guardi? Ma dipende, più che altro in realtà il mio consumo è molto minimo, perché quello che mi interessa è più l'informazione, ecco, le news, queste cose qua. Poi alcuni programmi sì, li guardo, ma non sono una teledipendente, diciamo. Prima sentivo che parlavate anche di reality, sono o non sono le web TV dei piccoli reality, ecco, secondo me assolutamente non lo sono. No, Luca, mi viene in mente, pensando a questo rapporto con la televisione generalista, che c'è un canale in Sicilia che si chiama Astuta TV, vicino Castelbianco, e Astuta in siciliano significa spegnere, e nasce come forma di ribellione nei confronti della televisione generalista. Spegnete la TV generalista, un'alternativa, diciamo, e accendete il canale. Poi io faccio tanto quello, ma poi io sono uno che almeno quando ha tempo consuma in quantità industriale la TV normale, poi se ne lamenta, però insomma la guarda. Ecco, siamo un po' di corsa, ma neanche tanto, però dobbiamo assolutamente parlare della migliore micro web TV nella categoria community, si tratta di Teleosservanza, e è una storia incredibile. Innanzitutto mandiamo la scheda. Teletopi 2009, migliore micro web TV nella categoria community, Teleosservanza. Storia di Giacomo Andreucci e di un team di giovanissimi che ha creato una micro web TV nella parrocchia francescana dell'Osservanza. Siamo a Cesena, quartiere Cesuola. Qui si irradia una vera e propria TV online, accessibile su www.teleosservanza.it e visibile anche come Telestreet. Teleosservanza si rivolge a 400 famiglie, i fedeli della parrocchia. Per farsi vedere, Giacomo, con il suo team, effettua anche una sintonizzazione manuale, passando di casa in casa. Tra le produzioni, anche la messa, irradiata grazie a una webcam sistemata in chiesa e accesa dai frati prima della funzione. Insomma, buongiorno Giacomo Giorgi. Buongiorno. Ecco, lì, insomma, il vostro audience è quello, sono quelle 400 famiglie, insomma, di lì non si scappa. Certamente, Luca, come avete ben detto nella nostra presentazione, il nostro audience sono quelli, sono i parrocchiani e tutti quelli che ti conoscono in diocesi. Tra l'altro Giacomo è giovanissimo, si sente anche dalla voce, perché il team di Teleosservanza è anche realizzato da giovanissimi che vanno appunto di casa in casa, nelle case dei fedeli, a sintonizzare sia il computer sia la televisione. Ma c'è qualcuno che ti riconosce? Cioè... sì, ovviamente, quando si gira per il quartiere i telespettatori ci salutano e ci ringraziano del servizio che offriamo. Beh, non è male però, insomma, Cioè, un po' essere una piccola star da un certo punto di vista. No. È normale. È normale. Noi diamo un servizio. Sei modesto, Giorgi, non devi essere modesto. In televisione funziona la star un po' vanitosa anche. Però diciamo questo, che in realtà sono servizi di pubblica utilità. Addirittura quando un frate non ha acceso un giorno la webcam per la funzione, qualche fedele si è lamentato e ha chiamato Giacomo per ricordare di accendere la webcam per la trasmissione. Mancano due premi, o sbaglio? Beh, due amici anche dello spazio radiofonico, che sono Orso TV, che è la micro web TV delle Valli Orco. Però noi Solana. Ne avevamo già parlato, per cui insomma li abbiamo battezzati in un certo senso. Miglior micro web TV Amarcord, perché ha saputo ridigitalizzare il passato della comunità. E poi l'ultima è la mitica Piero da Saronno con miglior micro web TV informativa territoriale. Sì, Piero si era presentato qui a Radio 24 con la telecamerina, aveva seminato il panico. Insomma, anche loro li salutiamo e li abbiamo premiati anche radiofonicamente. Ecco, mi dicevi che avete fatto anche uno studio sulla distribuzione delle web TV in Italia. Sì, cosa è emerso? I ricercatori di AltraTV.tv hanno realizzato questo studio che si chiama Netizen, su questi cittadini videomaker per passione, ed è emerso che in realtà non tutte le regioni sono virtuose in Italia. Ci sono alcune realtà dove ci sono troppo poche micro web TV e dove queste micro web TV hanno difficoltà a imporsi. Pensiamo al Veneto, al Molise, alla Calabria e alla Basilicata. Poi ci sono alcune regioni sotto osservazione, come la Campania, la Toscana, addirittura il Friuli Venezia Giulia. Diciamo che le regioni più virtuose sono Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, moltissime, e anche l'Abruzzo, dove c'è stata una moltiplicazione di canali anche dopo la tragedia del terremoto. Quindi... Ecco, tra l'altro, ma lì qual è il fattore? Cioè la grande città, Milano, Roma, Torino, o c'è un tema di banda larga proprio? Cioè, che risposte vi siete dati? Spesso c'è un tema di banda larga. In realtà nelle grandi metropoli, Roma, Milano, questa difficoltà di creare comunità e di creare micro web TV. Per esempio a Roma esiste una micro web TV che si chiama Monti TV, non documenta tutta Roma ma si limita al proprio quartiere. O meglio dire rione, che è il rione Monti, dietro al Colosseo. E documenta le botteghe artigiane che un tempo popolavano molto di più di oggi il quartiere del... Sì, perché poi tra l'altro la cosa che mi domandavo è, insomma, quello che a me interessa poi da milanese è il quartiere, cioè una TV che mi racconta Milano, ma boh, insomma, poi alla fine della fiera ognuno cerca, si localizza anche nel piccolissimo, nella via. Tra l'altro questo iperlocalismo trova attenzione con gli italiani all'estero, perché questo è micro web TV, queste 163 virtuose micro web TV vengono molto viste dagli italiani all'estero, dalle comunità di migranti in America, nel Sud America, in Svizzera, in Germania. Quindi si crea questo fortissimo legame con chi in realtà ha lasciato la terra natale, però vuole rivedere i contributi video, vuole sapere cosa succede. Messina Web TV ha la metà degli accessi da chi vive che poi all'estero. Era la missione di Rai International, se non sbaglio, cioè era nata come la TV che doveva poi fare un link tra gli americani e gli italiani. Invece poi lo fanno, poi avviene attraverso le micro web TV, e questo è sicuramente interessante. Abbiamo ultime due battute, mi interessa capire una cosa da te, cioè proprio insomma adesso facciamo un passo indietro e proviamo a ragionare su cosa succederà nei prossimi anni. Insomma, tu le hai un po' prese per mano queste micro web TV. Sì, sì, è creata che cosa questa ti aspetti e dove vuoi arrivare? Cioè, è un po' come il cattivo giornalista che dice fatti una domanda e dati una risposta, però insomma interessa capire dove state andando. Ecco. Ma innanzitutto diffondere il fenomeno. Queste micro web TV saranno destinate anche ad essere più conosciute di come lo sono adesso nei piccoli quartieri, ma poi creare una coscienza collettiva con la federazione, la FEMI. Si vuole anche dare un supporto di consulenza tecnico-legale alle web TV e creare, perché no, un palinsesto con tutte queste produzioni micro dal basso, come le abbiamo definite, che in realtà forse potrebbero dare del filo da torcere anche alle televisioni generaliste. Nova Lab 24. Insomma, passiamo dai teletopi ai topi veri, anche con tanto di chef al seguito. Tutto questo è accaduto lo scorso 7 ottobre. Sentiamo questa stranissima puntata. Abbiamo proprio un gatto cattivissimo. Cattivissimo, ma non sembra cattivissimo perché lo abbiamo in studio. Stiamo parlando di Massimo Donadon, titolare della Meyer Brown. Buongiorno. Buongiorno. Sentiamo però chi è nella scheda di Sandro Mangiaterra. I suoi clienti di Monaco di Baviera prediligono il grasso di maiale. A New York adorano il ketchup, a Shanghai il pesce fritto. È la prima regola della competizione globale. Se vuoi sfondare sui mercati internazionali, i consumatori bisogna conoscerli alla perfezione. E lui li conosce, come? Anche se hanno gusti un po' particolari, visto che si tratta di topi. Così Massimo Donadon ha messo a punto la sua carta vincente. Il problema, con soggetti sospettosi come i topi, non è la chimica, cioè il veleno, ma il palato. Bisogna rendere appetitose le esche, proponendo sapori che li facciano impazzire e quindi abboccare. Sapori diversi nei 5 continenti, anzi da città a città, altrimenti quelli girano al largo. Risultato, la Meyer Brown Deutschland di Donadon, che a dispetto del nome è un'impresa italianissima che si trova a Carbonera in provincia di Treviso. È diventata leader nella derattizzazione, chiamata a intervenire in ogni angolo del mondo, quando si dice un'azienda market-oriented. Allora, avete capito bene, stiamo parlando di topi e soprattutto abbiamo capito che non è vero che i topi amano il formaggio. I topi hanno tutti i loro gusti. Hanno un gusto raffinato. Questi qui ormai è facile dire metti lì la trappola per topi. No. Quando non c'è il gatto, i topi ballano. Cioè, paese che vai, topo che trovi. Certo, ci vuole il rat buster. Esatto, il rat buster. Ma abbiamo qui il diretto interessato. Massimo Domadonna, come le è venuto in mente che ogni topo ha un gusto diverso? Allora, all'inizio abbiamo fatto una ricerca in vari punti d'Italia, abbiamo creato 3 stazioni dove i nostri tecnici andavano e ci facevano la relazione dei vari gusti, perché cambiano i gusti di ogni luogo, dipende dalla cucina. E avendo il topo memoria genetica e prendendolo il fatto già nel ventre della madre... Ecco, mi spieghi bene questo passaggio, nel senso che il topo acquisisce quindi un gusto già prima di nascere, cioè nella pancia della topa, diciamo. Esatto, il topo già nella pancia della madre prende l'olfatto, ossia sa già che tipo di cibo deve mangiare, perciò non tutti i paesi o tutte le nazioni hanno lo stesso cibo. In Germania dobbiamo mettere il 40-45% di grasso di maiale. Il perché? Perché in quel paese l'alimentazione è un po' basata sui salumi, sui speck, sulle salsicce, sui queste Wüster, cose qua. Avanti, facciamo l'elenco città per città, no, i vari gusti. Diciamo subito una cosa, che questo signore, lo diciamo agli ascoltatori, che se vogliono, hanno curiosità, possono chiamare l'824-0024 o scriverci un sms al 349-238-6666, perché noi abbiamo qui la persona giusta per dirci: non so, io sono di Trieste, che cosa devo dare come posso quale ingrediente, insomma, è goloso chissà che non ci sia qualche sindaco in ascolto col problema dei topi, tra l'altro non ce ne chissà sarà solo. Che non ci sia il sindaco di Roma Alemanno che è in crisi al testaccio, oppure a Napoli la Rosa Iervolino, Rosa Russo Iervolino, chissà che non piovano richieste di consiglio. E comunque ci spieghi, allora facciamo la geografia del gusto dei topi. Partiamo da dove? Da New York. New York, abbiamo scoperto che, essendo la cucina predominante le margherine vegetali, consumano pochissimo olio e meno burro, perciò abbiamo deciso di aggiungere nell'esca della margherina vegetale. Perché la margherina vegetale? Perché mi diceva che quando avete fatto la gara per, insomma, vincere l'appalto sui topi, su quella, la zona dei topi, e voi siete stati destinati nel quartiere dove c'erano le grandi macellerie, insomma. Com'è quella storia? Me la racconta. Ecco, quando all'inizio il sindaco non era Giuliani, ma era Higgins, il primo sindaco negro di New York, il quale, quando hanno diviso la metropoli in vari quadrati, a noi ci hanno dato il peggio, dice: questo è un italiano e questo lo becchiamo subito, lo eliminiamo, invece che era la zona più infestata. E la più difficile anche. La più difficile, e allora invece noi abbiamo avuto un successo incredibile. Perché? E dopo è arrivato Giuliani e si è presentato ai suoi elettori dicendo: io ripulirò New York grazie a Donadonna, è così? Esatto, lui nella sua campagna elettorale lui ha puntato molto su Massimo Donadonna dicendo: io vi porto l'uomo che ci elimina i topi, perché la città era invasa. Perciò noi là abbiamo lavorato e abbiamo avuto un grande successo. Parigi, abbiamo fatto Parigi, abbiamo fatto Dubai, abbiamo fatto... Parigi cosa gli avete messo? La cipolla, il gusto sarà di cipolla. Parigi sarà il formaggio. Abbiamo messo del burro, perché la cucina francese attualmente ha piccole dosi di olio, la cucina francese è prettamente con il burro, perciò... è molto saporita anche. Quindi formaggio no, perché mi aspettavo i formaggi moli, che poi sono anche quelli più puzzolenti. Burro, ossia il dominante, bisogna trovare prima il prodotto dominante, l'aroma dominante, e poi si aggiunge. A Dubai cosa gli mettete? A Dubai abbiamo usato un impasto con anche dentro dei datteri. Dei datteri, sì. Vabbè, certo, cioè, ragazzi, abbiamo messo, abbiamo macinato. Dubai ci aspettavamo tutto speziato, nel senso che la cosa che ci il dattero è banale, è vero. Messo dei datteri e delle spezie molto piccanti. E poi, insomma, ogni città ha il suo sapore. Ogni città ha il suo sapore. In Cile, essendo lungo 5.400 chilometri, dove che noi abbiamo l'ufficio per l'America Latina, abbiamo fatto un intervento dove che mi hanno dato anche una laurea l'università, perché avevo un grosso problema, erano morte parecchie persone con l'antivirus. E invece noi abbiamo in collegamento la sorpresa. Allora, la sorpresa è Fulvio Pierangelini, uno Buonasera. Dei più grandi, dei più quotati chef italiani, quello che c'ha il massimo delle stelle, delle forchette, dei cappelli da cuoco, insomma tutte le carte in regola su tutte le guide giuste. Adesso Pierangelini, dopo aver fondato il famoso locale Il Gambero Rosso di San Vincenzo, è direttore artistico della catena alberghiera di Roccoforte. Insomma, perché Pierangelini? Perché anche lui ha i suoi topi e ce li ha in tutto il mondo, è vero o no, Pierangelini? Sì, praticamente io faccio lo stesso mestiere del signor Donadonna. Ecco, siete colleghi. Allora gli dica, allora prima di tutto ci dica come sono i suoi topi. Ma i miei topi sono delle persone fantastiche che frequentano i nostri alberghi, ed io da quando lavoro in quasi tutti gli alberghi di Roccoforte sono a latitudini così diverse che devo seguire le loro esigenze. Evidentemente non posso fare ai miei topi, tra virgolette, siciliani, le stesse cose che faccio ai miei topi di San Pietroburgo o di Berlino. Lei ha sentito, Pierangelini, quando Donadon spiegava un po' i gusti da New York a Parigi, ci si è ritrovato? Ma non ho sentito tutto, però ho capito qual è la tecnica. Beh, no, diciamo che io... un po' più sofisticato, insomma. Cerco di lavorare un pochino più sulla nostra storia, sulla nostra cultura, e poi dare dei piccoli segnali, dei piccoli abboccamenti, delle piccole esche per, secondo le loro culture, d'altronde io devo cercare di ammorbidire la parte limbica del cervello, quella dei ricordi, quella delle emozioni, e lì si deve andare su alcuni piatti che raccontino delle storie più profonde, e in questo modo devo avvicinarmi un po' di più alla loro cultura, fermo restando che la base è la nostra fantastica cucina italiana. Ecco, Pierangelini, ma noi abbiamo visto che per i topi funziona un fattore genetico già nella pancia della mamma. Negli uomini, insomma, il fattore culturale è decisamente quello più importante, o invece c'è un fattore genetico? Ma c'è indubbiamente un fattore genetico, e questo spiega anche perché la cucina, si possono imparare quasi tutte le cucine del mondo, e quella italiana per esempio non si può imparare fino in fondo, perché se non si è avuto una nonna, una zia, un savoir-faire tutto nostro, è abbastanza complicato riprodurre perfettamente questi profumi. Io stesso non riesco a fare i profumi di mia madre, e certo. quindi diciamo che c'è una grande parte che è genetica, poi c'è una parte data dalla storia, evidentemente anche in Italia un bambino nato a Sciacca è diverso da un bambino nato a Codroi. Ed è tutto, Nova Lab 24 torna lunedì prossimo, buon Natale a tutti. Nova Lab 24.